Il punto di Stefano Folli. E così siamo di nuovo appesi agli umori di Berlusconi, al rischio seppur vago ma non irrealistico che fra una settimana, ascoltata la sentenza che lo riguarda, egli decide di buttare all'aria il tavolo, lasciando le riforme del povero Renzi al loro destino. Può accadere, ma Berlusconi è un uomo pratico e oggi a cosa gli servirebbe distruggere il suo unico interlocutore, Renzi appunto, provocando una crisi senza sbocco e magari nuove elezioni in cui Forza Italia, stando ai sondaggi, finirebbe dietro al PD e anche a Grillo? Nonostante tutto è difficile che il famoso patto venga rotto in maniera esplicita e clamorosa, ma questo non deve tranquillizzare il Premier. Per i progetti del governo il vero pericolo è il lento svuotamento degli accordi, il venir meno della convergenza, in una parola l'inizio del logoramento. Nel momento in cui Renzi rilancia ancora dagli schermi televisivi come un provetto giocatore, ha bisogno di un Parlamento che lo segua con lucida volontà. Se questo non accade, per i problemi di Berlusconi o per i malesseri della maggioranza, il sentiero diventa molto scivoloso.